Bella raga! Buonasera a tutti! Pronti? Lunedì? Beh, io Marzi sempre pronta! Lo so! Prontissimo! Ok! Hai schizzato Rec, Fede? Certo, Marga, non ti preoccupare! Ok, pronti là! Vai! Ma con ora arriva il lunedì e ti parliamo da 2 anni! Cara amica mia, promettimi che poi ci ascolti ancora. Se qualcuno poi non è lì con te, non è lì con te, tranquillo, ci siamo noi tre. E dai, solo un'ora, un quarto a Milano su, ma poi parliamo d'altro fuori dal comune. Cottura. Preparazione di vivande o trattamento di materiali e manufatti mediante esposizione prolungata all'azione del calore. La cottura del pane, la cottura dei mattoni. La durata di tale esposizione. Ci vogliono almeno 2 ore di cottura. Eccoci qua. Benvenuti. Ciao. Anche stasera direttamente dall'acquario di Genova. Sì, ultimamente va così. Benissimo, allora benvenuti a tutti, questa è Fuori dal Comune, siamo sempre a Milano Sud, vi chiamiamo, vi trasmettiamo da Radio ZAM. Che salutiamo, ciao raga. Radio ZAM in diffusione da Milano Sud. Radio ZAM in diffusione da Milano Sud, per le vostre serate al freddo. Yeah. È tornato il freddo, ragazzi, stiamo approcciando piano piano l'inverno, mancano ancora 20 giorni comunque. Oggi Nebraska, oggi lunedì 30, no, 29. Oggi lunedì 29 novembre e oggi vi vogliamo parlare di quanto siamo cotti. Yeah, e siamo solo a lunedì, anzitutto. Però a fine novembre è un po' come se fosse fine luglio alla fine. Sì, è vero. Sì, sì. Tutto... Sei lì che comincia a nasare l'estate, quindi in questo caso l'inverno. Sì, che poi è lunga, eh? L'inverno è molto più lungo dell'estate. In realtà ci hanno mega fregato, secondo me, perché tu arrivi tipo a fine ottobre che sei convinto di essere già in inverno. Sì. E in realtà invece l'inverno inizia tipo 3 giorni prima di dicembre e poi sì, va avanti per tantissimo. Possiamo dire quanto è lungo gennaio? Gennaio è lunghissimo. Gennaio è lunghissimo, ma è anche abbastanza lontano ancora. Vero? Che ci fa ben sperare. No, è che siamo tutti in attesa forse di qualcosa che succederà, spero niente. Dei doni. Dei doni di siamo Natale. In attesa dei doni di Babbo Natale. Di Babbo Natale. No, io pensavo in attesa che riniziassero delle zone un po' sbatti. Però, perché dobbiamo... No, parliamo di cose positive, ecco. Beh, facciamo una puntata su siamo cotti, mi pare... Ah, hai ragione. Vabbè. Non stiamo parlando. È andata giù la radio. Ecco, giallo. Oh. Siamo tornati. Si sentite? C'è stato il nostro primo blackout. Però, dunque, non sappiamo dove abbiamo lasciati, però direi di riprendere le fila, innanzitutto rendendovi noto dove contattarci, perché ricordiamo, siamo su Fuori dal Comune, un programma di Radio ZAM, e oggi parleremo di essere cotti in tutti i modi, in tutti i laghi, in tutti i modi. Com'è che era? La città? In tutti i luoghi, in tutti i laghi, secondo me. In tutti i mari, in tutti... No, in tutti i luoghi, tutti... in tutti i laghi. No, mari. Era lunga. Era in tutti... Vabbè, se qual... in tutti i luoghi, in chiediamo tutti... ai nostri followers di esatto, refresharci questa cosa. Ma Marzi, dove possono farlo? Ecco le nostre coordinate! Io tra l'altro mi sento come sto urlando, io spero di non stare urlando nelle orecchie di nessuno. In questo lunedì meraviglioso sera. Allora ci potete scrivere, ci potete contattare unicamente sulla nostra pagina Instagram, Fuori dal Comune Stava Preso, tutto attaccato, tutto minuscolo, sempre perché stava preso, quindi ci potete scrivere lì e commentate. Scrivete. Questa è una città, anche questa di YouTube degli anni che furono. Mi confermano da casa che siamo tornati. Ottimo. Bruttissimo nelle vostre orecchie per... Dovete sapere che quando abbiamo fatto la prima riunione per capire come funzionava la radio ci hanno detto tipo almeno 7 volte quando quel bottone lì diventa viola è la fine. È la fine. Ecco, stasera è successo. A un certo punto quel bottone lì è diventato viola. Ottime premesse. Esatto. Ottime premesse per questa serata in cui vi parleremo di cottura puntino. E lo faremo nel nostro stile, quindi dicendovi cose che apparentemente non c'entrano nulla con essere cotti, o forse sì, non lo so. Quindi speriamo tutti che in questo lunedì sera siate cosy nelle vostre case, perché alla fine chi esce lunedì sera? Bello cosy nelle vostre case. Cosy nelle vostre case, lunedì sera. A farvi le vostre zuppette, perché lunedì c'è sempre questo rito della zuppa, perché comunque si pensa che bisogna almeno questa settimana, dato che si approcciano le vacanze di Natale, tra 3 settimane stare un po' a dieta. Ah, siamo nella fase detox. Sì, uno dice dai, giusto, no, è vero. Settimana, sì. Già che arriverà un momento in cui mi sfondo, adesso sto un po' calmo, quindi avete fatto la vostra calma. Avete fatto la vostra zuppa di lenticchie che ultimamente mi piace, anche se ovviamente io la compro già fatta, e per questo metteremo una colonna sonora per la vostra cenetta. Esatto, per cuocere ed essere cotti con noi. Ma quindi andiamo col pezzo adesso? Andiamo col pezzo. Ok, perfetto. Andiamo col pezzo, vi facciamo entrare in questa atmosfera fantastica di cucina, cotture, via col pezzo, coltelli e posate che sfrigolano. Quindi vi lasciamo con Mac DeMarco, Cooking Up Something Good. E rieccoci. Allora, prepotentissimi. Eccoci qua. Mac DeMarco a me piace sempre, sì. Una grande nota di stima verso i suoi confronti. E... Che storia ha Mac DeMarco? Se ci sta ascoltando, adesso sei innamorato della Marco. Esatto. Mac, anzi, DeMarco. Sposami. Bene. Allora, ragazzi, questo lunedì. Non mi avete risposto, ma che storia ha Mac DeMarco? E non la sappiamo, sappiamo. Non lo so di dov'è, dove è nato, quanti anni credo ha. Credo che sia americano. Americano, poco più grande di noi. Un po' quel classico compagno del liceo, un po' creativo, alternativo, bizzarro ma simpatico. Basta. Ha fatto l'art school. Esatto. Okay. Ed è diventato famoso. Poi c'è stato il momento che tutti quanti lo adoravano perché faceva un po' il matto sul palco e quindi erano tutti matti. Beh, io effettivamente l'ho visto smattare sul palco, è stato molto bello. Sì, no, cioè nel senso... Cioè è proprio il suo format. Era un po' lo stile. Comunque una cosa, se possiamo dire, Mac DeMarco fa le canzoni un po' troppo corte per essere passate in radio. Perché noi ci stavamo preparando e non abbiamo potuto fare niente. Ci siamo un po' persi via. Quindi, però Marghe ti adora, ma... Ma riprendiamo le fila. Allora, di solito voi siete abituati che prima vi chiacchieriamo un attimo del tema della giornata, eccetera. Invece in questa occasione, in questa puntata, vogliamo iniziare col botto. Oh, yes. Quindi con il primo, perché non sarà l'unico, spoiler, ospite della giornata. Spoiler! Yeah! Esatto, allora abbiamo detto che il tema è cuocere, cottura. Siamo partiti con i nostri brainstorming che ci piacciono molto e siamo arrivate all'arte del cuocere. Io qui mi taccio perché l'unica cosa che volevo dire era arte del cuocere. E quindi mentre la Marghe fa la sua chiamata di rito, esatto, di cosa potremmo parlare dell'arte del cuocere? Noi ci abbiamo ragionato tanto. Parleremo di cucina? Non ora. Parleremo dell'essere cotti? Non ora. E la Marghe mi fa dei gesti tipo, parleremo di un signor Cotti? Di un signor Cotti? O di una signora Cotti? Di una signora Cotti? Non ora credo proprio. Non ora, mi sa che proprio non... No. E di che cosa parliamo? Dell'arte di cuocere? Parliamo dell'arte di cuocere. Parleremo di una professione, esatto. E di un progetto, di un business molto carino. E parlando di persone arzi come Mac DeMarco, chi non chiamare se non dei nostri amici un po' arzi che stiamo cercando di collegare. Allora, mi sa che l'abbiamo collegata. Ci sentite? Stefani? No. Oggi abbiamo solo problemi tecnici. Non ne usciamo. Stefani? Vabbè, intanto, mentre Federico prova a mettere in contatto la nostra ospite... Ah, forse ci sentiamo? Stefani? Noi vi sentiamo. Ah! Benvenute. Benvenuti. Benvenuti. Buonasera. Ah, ci sono due voci. Abbiamo Stefani e l'eco, oppure Stefani e Stefano. E Stefano. Stefani e Stefano. Ma quanta originalità. Bene. Anche nella mia battuta, peraltro. Lol. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Ciao, noi tutto bene. E voi come state? Soprattutto da dove parlate? Che sappiamo essere... Da Nizza, infatti mi sa che avevamo problemi di connessione perché qua ogni volta che ci chiama non va mai. Niente. Perché... Ma non sarà così per noi, non andrà così. Tutto bene. Tanto tutto quello che poteva andare male per il momento è andato male. Quindi... Bene, allora andiamo avanti. Ottimo. Ok, quindi abbiamo Stefani e Stefano direttamente da Nizza che oggi ci parleranno dell'arte di cuocere, o meglio... O meglio, esatto. O meglio, ditecelo voi, Stefano e Stefania. Qua c'è la ceramica, secondo me. Mi sento un quizzettone. Io esatto. Dico la ceramica. Esattamente. Oggi abbiamo pensato di invitare qualcuno che cuoce la ceramica. Ovvero il vostro meraviglioso progetto, Yummy Yummy, ma com'è nato? E di cosa si tratta anche? Allora, Yummy, praticamente io e la Stessa siamo due freelance che già lavoravamo. Ragazzi, mettetevi la... comodi perché se Nicolao inizia a parlare. Insomma, mettiamo la sveglia, No, allora, noi siamo due freelance che abbiamo sempre lavorato indipendentemente e per clienti. E a un certo punto, durante il lockdown, ci siamo resi conto che è molto piaciuto iniziare a fare qualcosa per noi o comunque seguire le nostre idee per forza dover stare dietro a delle dinamiche ambienti. E niente, questo è il motivo principale. Poi sono nate le cose, siccome già lavoravamo, allora comunque l'intesa c'era già, è stato molto più facile poi trovare un'identità, crearlo. Ok, per chi non vi conosce possiamo, non so se poi mi odiate per questo, ma riassumere diciamo il vostro progetto che appunto, se non conoscete Amici da Casa, cercate su Instagram Yummy Yummy, scritto I-A-M-M-I, così come... Perché è buono. Esatto, perché è buono. E loro, adesso magari dico delle castronerie perché non sono designer, però fanno dei vasi, in buona sostanza, con dei simpatici culetti. Cioè delle belle forme... Sì, delle anche. Delle anche e dei culetti. Esatto, di ispirazione greca. Esatto. Di ispirazione greca. E la scoperta del lato B dell'anfora. Finalmente è stato rivelato il lato B dell'anfora. Ah, e vedi che era questo il concept, bellissimo. Bellissimo. Ottimo. Quindi voi dal lockdown, diciamo, avete proprio messo le mani in pasta e quindi avete iniziato a fare il vostro prodotto, diciamo. Quindi avete iniziato a lanciarlo. E come sono andati i primi modelli che avete fatto? Sono usciti subito belli come quelli che vediamo nelle foto o primi tentativi? Il primo era un putto, era veramente un putto, era sì. Il sedere di un angeletto. Guarda, c'è stato un travaglio con gli artigiani perché comunque quello che disegnavamo in 3D non veniva interpretato molto pazzesco. Ad ognuno è so cool, in sostanza. No, poi guarda, dopo varie prove comunque alla fine abbiamo deciso di affidarci alle stampe 3D e abbiamo creato questa, appunto, l'anfora col corpo di una donna e niente, è andata un po' così. Ma ho una domanda, voi vi sentite più parte della community dei designer o della community degli artigiani? Cazzo, che domanda difficile, wow. Marzi! Difficile, e tra l'altro inaspettatissima proprio. Guarda, dal lato design sicuramente è tutto il fatto che il prodotto viene realizzato nel modo possibile, senza spreco di per una possibile produzione e tutto qua. Però non solo, perché spoiler, dall'anno prossimo svilupperemo tutta la parte di laboratorio, dove ci saranno le capsule collection o oggetti unici che realizzeremo proprio noi, ci autoprodurremo. E uscirà tutta la parte artigianale. Quindi per risponderti è entrambi. Ok, sì. Ma visto che parliamo di arte di cuocere... c'è un tempo di cottura anche in questo caso, come la pasta? Sì, assolutamente. Tempi e comunque anche tutto il processo che deve fare la ceramica per andare in forno e uscire bene è super importante. La parte più critica è quando viene tolta il tappo, che in quel momento è ancora fresca la terra, e dal momento in cui più il sederone della Vibrad va... Cede... di schiacciare il vaso, comunque è una base, quindi è un processo molto difficile, più importante della produzione, e poi niente, sono pronti ad andare in cottura. Ma se dovesse mettere tipo come i minuti di cottura della pasta dietro al vostro prodotto, quanto mettere, cioè io non ho idea, un giorno, 4 ore, 6 ore, non ho idea, 10 giorni o varia da culo in culo, dalle 3 alle 4 ore. Ok, se si fa i giri in forno. Ho un'altra, sì. Ma doppio, perché poi c'è la cristallina, quindi ritorna in forno. Ok, e poi o due volte, perché la ceramica è molto porosa e già c'è il pericolo che l'acqua passi, quindi non assorbi totalmente. Ne facciamo due passate di cristallina, quindi ci sono in totale 3 infornate. Ah, beh. Comunque, ultimamente vedo che è tornato un po' questo... Cioè, allora, prima ho visto il Knitting Club, quindi quelli che facevano l'uncinetto. Adesso vedo il Pottery Club, no? Quelli che iniziano a fare... No, mi sembra un momento di hype per il vostro... per la vostra nicchia. Siete d'accordo? Sì, i tappeti adesso. Ah, brava, i tappeti, brava. La ceramica era tipo l'anno scorso, inizio di quest'anno, adesso... Ha ragione, è già un po' datato come trend, cioè è ancora in voga tra il milanese un po' annoiato, ma è datato. Adesso è arrivato il tappeto. È arrivato il telaio. Ma la cosa che mi fa sperare bene è che comunque ci siamo beccati tipo qualche mese di pandemia in cui tutti facevano il pane e invece voi cazzo avete fatto i vasi e sono contentissimo, cioè c'è qualcuno che ha fatto qualcos'altro. C'era sempre un fornaio di me. Esatto. Però qualcosa di diverso. Ho un'altra domanda difficile, poi vi lasciamo. Ma visto che ci sentiamo, vi sentite un po' designer, un po' artigiani, ma vi sentite imprenditori? Sì, c'è un mio amico che, adesso parlo per me, mi chiama la donna in carriera. Wow, grande. spettacolo, perché una volta eri una donna in carriera o un uomo in carriera se lavoravi alle poste, adesso nel 2021 invece adesso puoi fare i vasi o fare qualsiasi altro lavoro e sei comunque un uomo o una donna in carriera, stupendo. Ma vai quasi no, niente. Ok, allora, ultimissima veramente domanda, ma si può ancora chiedere a Babbo Natale un vaso? Arriva? Ma certo, certo, lascia parlare la donna in carriera. Facciamo gli shipping fino al 17 di dicembre, poi scommiamo amici. Wow. Vabbè, beh, ma allora, scusate, amici da casa che non avete ancora trovato il regalo giusto per vostra madre, sorella, fratello, cugino, padre, nonno, amico, migliore amico, eccetera, tutto, eccetera, andate su Yummy Yummy e ordinatevi un sacco di fortuna, perché ci vuole culo. Spendetevi la tredicesima e la quattordicesima e il bonus, tutto quanto. Esatto. Bene, e soprattutto di Arsanta, mettetelo nelle vostre, sì, letterine di Natale. Ci piace. Dai, Arsanta, bisogna riempirlo sto carrello. Esatto, esatto. Dai coi carrelli. Bene, grazie mille ragazzi, dalle nostre cotture alle vostre. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao. Grandi mitici. Eccoci grandi qua. Mitici. Nel frattempo, Marzi, volevo aggiornarti sul fatto che mi hanno detto che De Marco è canadese. Uh-huh. Ok. Quindi non è americano. Ma abbiamo detto. Vabbè, sono stati un po' generici, eccetera, eccetera. E, no, vabbè, basta. Dicono che non è così matto. Io quando l'avevo visto dal vivo mi sembrava quel. Ti sembrava matto. Okay. Intrigante. Quindi al momento mi avete dato tre informazioni: che ha fatto il liceo artistico, che era americano e che era matto. Due su tre sbagliate. Esatto. Però ma andiamo avanti. Però cioè, magari nel corso della. Americano come continente americano. Ah, certo. Non certo. Statunitense. Vabbè, detto che appunto magari andiamo avanti nel corso della puntata e qualcun altro ci aggiungerà informazioni. Di Mac DeMarco. E a fine puntata avremo ricreato la pagina Wikipedia di Mac DeMarco. Potrebbe ottimo. Essere un gioco. Potrebbe essere un gioco, sì. Ce lo teniamo anche. Se volete anche giocare con noi da casa, mandateci esatto. Tutte le informazioni più strane che riuscite a trovare su Mac DeMarco. Esatto. Noi nel frattempo andiamo avanti. Direi. Noi andiamo avanti dopo che abbiamo sentito i nostri amici, anzi la nostra amica e il nostro amico che da oltre... Oltralpe. Stavo dicendo oltre Manica, nel frattempo dicevo no, oltre Manica è tutto sbagliato. Quindi da Oltralpe ci hanno chiamati con il loro meraviglioso progetto Yummy Studio. Vi vogliamo però riportare un po' tra di noi, ma non troppo in realtà tra di noi, perché vorremmo trasportarvi in un altro tempo. Ma forse prima di farlo io manderei un pezzo. Esatto, stavo creando l'atmosfera. Prima di farlo? Esatto, rovinata. Esatto, sempre, questo è un altro format delle nostre puntate, è lo spoiler uno dell'altro. Uno cerca di creare atmosfera per qualcosa, crasha. Quindi ovviamente vi abbiamo parlato di vasi, ok? Vi abbiamo parlato di una arte nobilissima. Ok, ora ce l'ho, vai. E chiudete gli occhi e direi che a quasi tutti e a tutte la prima cosa che viene in mente è... Ci immaginiamo Stefano e Stefania in questa posizione. Peraltro, cioè, ieri sera per mettere questo pezzo ci siamo riguardati la grande scena, perché Marzia aveva dei dubbi che questa fosse la canzone e ci siamo resi conto che è, direi, un focus infinito sull'addominale di lui, che non sappiamo mai. Vedi, siamo sempre superficiali. Lui morto, purtroppo. Morto. E niente, posso c'è questa scena vai, di vai, sesso. Vai. No, il momento più bello lascialo su. No, esatto. Non so se vi ricordate lei che fa manipola questa cosa a dimensione fallica, ricorda vagamente il fallo, e poi c'è questa fortissima passione che li prende e improvvisamente sono puliti. Puliti, perché l'amore scaccia via qualsiasi cosa, soprattutto lo sporco d'argilla sulle mani. Esatto. Quindi vi invitiamo anche a rivedervi la scena, se non siamo riusciti a farvi entrare in questo ricordo. Posso staccare? No, dai! Io ieri mentre preparavamo la puntata ho detto: raga, la mettiamo solo 3 secondi, vero questa cosa? Era come non metterla. Ok, direi che vi abbiamo un po' fatto sognare. Sfumino. Oh, bene. Siamo di nuovo a Milano. Benissimo, siamo ancora a Milano, siamo ancora a Radio ZAM, purtroppo nel freddo, non ci siamo scaldati con i nostri amici di, e le nostre amiche di Ghost, riportate in quella, in quella scena, noi non sappiamo il nome di nessuno. Ah, i nostri amici e le nostre amiche sono i due attori protagonisti. Sì, esatto, noi siamo scarsissimi con i nomi, scarsissimi con le parole crociate. È Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore. E lui è quello di Dirty Flash Dancing. Dance, sì. Dirty cosa Dance. Flash Dance? Dirty Dancing. Vabbè, siamo scarsissimi. Patrick Schweizer. Bravo! Schweizer. Meno male che Fede c'è, esatto. Noi abbiamo... Anzi, se da casa avete dei rimedi per la memoria, fateci sapere perché la situazione è greve. Noi scambiamo con dei rimedi per non essere più cotti, che vi racconteremo più tardi. Quindi abbiamo parlato di essere cotti e anzi no, non abbiamo ancora parlato di essere cotti, abbiamo parlato di cuocere, quindi cuocere. Attivamente, verbo dei, transitivo. Se fossimo dei vasi saremmo abbiamo cotti. Parlato di essere cotti, ma esatto. Siccome non siamo dei vasi. Comunque ora che ci pensavo, a me, io forse una volta ho fatto un vaso. Sì. Alle elementari, quando abbiamo studiato il... i primitivi. Quando siamo andati Greci. In gita poi al parco, dai, tutti andavano. In Valle Camonica. Bravo, in Val Camonica, poi abbiamo fatto il vaso. Bello. Forse anche io l'avevo fatto una roba del genere. Diluviava. Anche io. Ma forse ma come tutte le gite, chi è che è andato in gita che non pioveva, scusate? No, anche c'era sempre questo disagio qui. Vabbè, comunque, cottura, siamo partiti subito col botto con i materiali. Yes. Esatto, per ingannare però, un po'. Esatto. Però ritornerei a quell'ora di cena in cui tutti vi state un po' approcciando tranne noi, quindi noi moriamo sempre di fame, sappiatelo, yes. Che è proprio la cottura dei cibi. Le cotture difficili e tutti i misteri che ci celano dietro, esatto, a queste fantastiche che cotture. Noi non vi diremo, no. Sì, hai sempre quell'amico che ti dice: oh, ma qual è la ricetta? Il segreto della cottura. Il segreto, esatto, della cottura. Ma il segreto della cottura non saprei, nel senso che non mi sono neanche spinta così tanto in là da effettivamente provare che il segreto della cottura. Settimana scorsa per scaldarmi il collo, perché avevo il torcicollo, ho messo un asciugamano nel microonde perché l'ho trovato scritto su WikiHow, non è andata bene. Il segreto. Però forse cottura. Il segreto è WikiHow. No, forse il segreto era la cottura, perché devo farlo magari andare un minuto. Io l'ho fatto andare sì, potesse, sei. Tutto potesse. Male. Comunque, tutto così, male. Prima di lasciarvi col prossimo pezzo, prima di introdurvi la prossima parte, possiamo dire che probabilmente tra i tre, un, due, tre che siamo qua presenti, forse la Marghe è la migliore per quanto riguarda la cottura. La cottura, sì. Perché io non mi reputo nemmeno capace di accendere il forno. Marzi forse è a metà strada fra me, Marzi, e la Marghe. Però devo dire che non l'abbiamo ancora sperimentata. Non posso dire di aver mangiato by Marzi. È vero, nessuno dei due mi sa. Io faccio poche cose. Ma bene, ma le cuoci da Dio. Riguardo il mio cibo segreto, o in generale? In generale, no, il mio segreto non è la cottura. Okay. Il mio segreto, volete sapere qual è? Sì. Il burro. Io? Ok. Vabbè, quindi questa storia delle cotture difficili la approcciamo al prossimo pezzo, dopo il prossimo pezzo? Sì, sì, sì, dopo che forse c'è anche qualcuno a spiegarci qualcosa. Sì, perché avevo detto che noi di cotture difficili non ne capiamo un cazzo, ed è verissimo. Confermiamo. Però, e vi avevo anche spoilerato che non sarebbe stato il primo ospite, quello dei culetti magici della Magna Grecia, perché vi vogliamo bene, abbiamo portato qualcuno che vi possa veramente spiegare che cosa vuol dire cottura difficile. Molto difficile. Ma non andrei oltre nello spoiler. No, no. Ok, perfetto. Per fare una grande cottura, quindi per avere tutti gli ingredienti necessari per poter permettersi di fare dei grandi piatti, primi, secondi o dolci che siano, sì, dovete andare al supermercato. Oh. E per questo motivo vi lasciamo queste con... queste associazioni che gancio. Le facciamo. Che gancio. Lost in the Supermarket dei Clash. Buon ascolto. Shop happily. I came in here for a special out there. Guarantee personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb over which I never could see. I heard the people who live on a ceiling scream and fight or scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. Came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons for packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls make new noises for company. Long distance callers make long distance calls. Supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. Special offer, guaranteed personality. I'm now lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. E rieccoci. Eccoci. Nel mio fidanzato dei sogni, credo che voglio vorrei nel anche... Tuo. Nel mio, cioè se potessi fare un ordine. Su Amazon. Col Black su. Oggi è il Cyber Monday. Esatto, se per il Cyber Monday potessi avere un fidanzato dei sogni, lo vorrei appassionato dei Clash. Hanno di cottura? No, tra le altre cose, appassionato dei Clash. Tra l'altro, speaking about cottura... A me la prima cosa che mi è venuta in mente è... Cioè, vedi che sta ancora ridendo sul fidanzato comprato al Cyber Monday, ma sì. Ci sta. Cioè, mi immaginavo cheap. La Marzia che ha tipo questo pannello di questi e-commerce. Per te è solo... Boni.com. Esatto, una dashboard. Cioè, però è una dashboard fair. Cioè, dove tu... Cioè, adesso io ho messo Clash e va via un'altra cosa. Cioè, non puoi avere tutto. Tipo, ho messo Clash, va via... Che ne so, folti capelli. Ah, ok. Devi essere molto attenta a cosa scegli. Sì, è un balance. Vabbè, ok. È un balance però come aspetta, la cottura. Aspetta, scusa una cosa. Io sto cercando di ritornare al tema, attimo, voi mi deviate. Ho bisogno di approfondire questa prego, cosa. Prego. Se per appassionato dei Clash va via capelli folti, quale altra cosa è matchabile con fidanzato con appassionato dei Clash? Giusto. Cosa non va via, dici? Cosa non va via? Cioè proprio la cosa che va proprio di... Che te la danno quasi in regalo. Cioè nel boni.com. Ma sempre, sempre nella mia wishlist o sì, te sì, la prendi no, con... Nella, boh, anche. Ah, no, che la prendi con... Cioè che tu non puoi scegliere. Tu prendi quello, va via capelli folti. Appassionato dei Clash, ha fatto application a Oxford e non l'hanno preso. Ok, perfetto. Buono. Beh, ora posso dormire tranquillo. Ho capito il Cyber Monday, allora. Ok, perfetto. Sì. E quindi adesso non so più come rientrare in argomento. Andate su boni.com nel caso, se siete alla ricerca di... Compratevi il dominio, subito idea di business. Dicevamo della cottura, Marga. Ok, dicevamo della cottura. E una delle prime cose che... Quindi stavamo pensando alle cose difficili da cuocere. Sì. Ok, e vai. Personalmente la cosa su cui faccio un po' più fatica è l'uovo. Come? In tutte le sue forme. Mm. Peraltro oggi ho scoperto in ufficio, in pausa pranzo, che... e non è una volgarità... Però l'uovo, diciamo, sodo ma dentro liquido, è confermato chiamarsi barzotto. Sì. Barzotto come quell'altra cosa che è, no? E quindi... esatto. Chissà con cosa la scambi quell'altra cosa su boni.com. Esatto. No, barzotto. Sì, barzotto, non ho capito. No, se la, se scusate, non l'ho persa. Se lo attivi, poi qualcos'altro lo perderà. No, che ti verrà con qualcos'altro che tu attivi. Con un sacco di simpatia. Forse. Per reggere quel momento. Esatto. Cioè. Perfetto. Ottimo. Quindi l'uovo difficilissimo. Io lo so, eh. Che cosa? Quanto l'uovo? Perché... imparati? Sì. Beh, l'uovo lo so anch'io. Io no. 7 minuti. 8. Aia. Aia. 7 minuti. 7. Per fare cosa? Per farlo, raga? Barzotto? 4. No, io lo sodo. 7 minuti. Però io ho una domanda. Marta, cioè... la mia coinquilina, molto esperta. Se ci stai ascoltando, Marta, facci sapere. Molto esperta, molto ligia al dovere su queste cose. Però io capisco questa cosa dei tempi di cottura nell'inframezzo fra quello che è un uovo crudo completamente, sì, e un uovo sodo, ok? Cioè, oltre all'uovo sodo non c'è più niente. Vabbè, oltre all'uovo sodo scoppia. Ah sì? E si rompe. Ah, non lo sapevo. Si rompe il guscio, esce fuori un po' di... Basta da buttare. E poi ciao. 30 esatto. centesimi nel cesso. 8 minuti. Il tema, non so se a voi è successo, a me molte volte per questo problema di non saper cuocere l'uovo, che ero convintissima fosse sodo, sono lì, lo sbuccio, poi uno sbattone, sbucciare l'uovo, eccetera. Prendo il coltello convinta di tagliare qualcosa molto più simile al marmo che all'acqua, e invece poi dentro mi si... e usciva fuori tutto e pensavo... ma no. C'è anche quella preparazione dell'uovo, quella difficilissima. Sì. Con quella roba di plastica. Devi farlo girare. Sì, no, ma quello oggi... che metti nella roba di plastica. Ma quello è per chi non è capace di farlo. Sì, è vero. Quello è il trick. Invece i pro lo buttano dentro con la... Com'è che si chiama? In la camicia. La spuma. L'uovo in camicia. Sì, l'uovo in camicia. Oggi mi hanno anche raccontato che se... No, raga, l'uovo in camicia e l'uovo al cereghin, che è un'altra roba. L'uovo in camicia è quello che tu metti nella padella, rompi e poi si fa allora al cereghin. Ma quello non è l'occhio di bue? L'occhio di bue. Ma si chiama il cereghin perché il cereghin sarà in camicia, no? Boh. Oh. Vabbè. Cereghin e cricchetto. Comunque forse c'è anche l'uomo in camicia su boni.com. C'è cereghin e il cricchetto. Male. Quanti parallelismi tra le uova e gli umani e maschi. Gli umani maschi. Io ho scoperto che se metti l'uovo, non so in quale, non ho ascoltato benissimo, però se lo metti dentro una composizione di zucchero, mi pare, e acqua, praticamente lo vai a far marinare, poi lo piazzi sulla pasta, a quel punto poi la marinatura in qualche modo lo solidifica fuori, ma lo tiene morbido dentro, e poi ti fa l'effetto un po' carbonara appena sciolto. Posso dire, sinceramente, troppo sbatti per una roba che non ti sfama come l'uovo. Ah, a me l'uovo piace un sacco, anche però a me piace. Un po' sbatti. Troppo sbatti. Ma in realtà, raga, cioè, tantissime cose. Altre? Tipo, non so, se io penso, la carne delle volte è molto difficile da saper preparare. Io ho conosciuto, vi raccontavo, ho conosciuto questo ragazzetto di anni 18, tipo, no, 21, fai conto, croato, che insieme al fratello ha messo su un gruppo Facebook che si chiama Cooking with Ivan, una roba così. Che boomer. Che boomer, ma effettivamente funziona, in cui ha 150.000 iscritti gasatissimi che osservano i suoi modi per fare gruppo per Facebook, cuocere, raga, la carne. Stupendo. Facebook. Vai Ivan, cuocici tutto. Ivan si chiama? Ivan. Mm. E comunque trovo di difficile cottura anche le torte. Dai, difficile. Beh, sì. Poi c'è quella storia che se fai i dolci devi essere una specie di piccolo scienziato delle proporzioni. Qualcuno mi disse la cucina è tutta chimica. Beh, sì, penso di sì. Ma credo che ci sia una categoria di influencer, ho scoperto, di content creators che hanno fatto di ciò un loro content. La cucina. Quindi loro chimica. Dicono, esatto, sì, secondo la chimica cosa dovresti mangiare. È vero. Sappiamo dove andrà a finire Fedez con le prossime stories. Dici? Alla ricerca del trend. Ah, la ricerca del trend. Visto che con la musica. Ma forse a far tappeti. O forse farà tappeti. Va bene. Beh, allora, tra le altre cotture difficili abbiamo detto l'uovo, che mi sa che la fa da padrona, ma... Ma? Ma? Ma? Ma? Altre cose? No. Ma? Ma? L'uovo è molto difficile, ma c'è qualcosa che è ancora più difficile. Esatto. Posso dire che cosa non si cuoce stasera? L'intesa tra noi tre non ci capiamo. No, ma perché no, siamo messi un po'... Facciamo delle gag, sono delle sì, gag. Sì, è tutto preparato. Su questi gag. Momenti che dicono, ah, ma non sono preparati, ma no, non è vero. Noi siamo super preparati. Super preparati. Abbiamo tutto un foglio Excel con le cose scritte. Esatto. Poche. Male. Ma buone. E non buone. È neanche un foglio Excel comunque. Non è neanche un foglio Excel. Ok. È un Word. Ma va bene. Ok. Ma l'altra grande cosa, visto che entriamo in tema invernale, natalizio, è un grande piatto tipico, lo possiamo definire un dolce tipico della sì. tradizione italiana. Dolce più sì, corretto. Non classicamente una cosa che tutti si fanno a casa. Ma, no. ma stasera abbiamo un esperto con noi. Che di panettoni. Oh, il panettun! Il panettun! Va bene, allora intanto tu chiamalo, Marghe. No, tu... vorrei fare una premessa. Questo esperto di panettoni è effettivamente una persona normale, quindi sì. evidentemente è possibile... Io lo chiamo, eh? Vai. Chiamo. Cioè, è possibile fare il panettone anche a casa. Esatto. Noi prima abbiamo detto che non facciamo manco l'uovo perché dobbiamo fare la cottura, però evidentemente c'è chi può fare il panettone, ma secondo me... insomma... Pronto? Eccoci. Ciao, Miki! Ciao! Siamo ciao. Noi! Ciao, amici! Ciao, esperto di panettoni! Vi stavo ascoltando. Perfetto. Ottimo. Che caso! Ah, non eri lì che non sapevi che cosa fare, a un certo punto hai trovato un numero sconosciuto e hai detto, rispondo, magari mi chiedono qualcosa sul panettone. Ma è stato tutto un collegamento, perché a cena ho mangiato uova. Oh, ah. Nel panettone ci sono le uova ah. E quindi mi avete dato un sacco di consigli. Quindi è un cerchio che si chiude in fondo? O che si apre? È un cerchio che si... Beh, dipende, sì. Con le uova si possono fare un sacco di cose, quindi... Sì. Ma tu non sei qui per parlarci di uova, sei qui per parlarci di panettone! Ti stavamo facendo un'introduzione fantastica dicendo che sei una persona normale... Questo è quello che ha detto Marzia. Michele è una persona normale che però è molto brava a fare i panettoni, quindi non dovete essere dei draghi della cucina, pasticceri professionisti, dei pasticceri professionisti per fare il panettone. Tutto questo per dire che Miki è un collega mio di Marzia, quindi fa altro nella vita, cioè si occupa dell'innovazione e del digitale. Porca boia! E poi al tempo libero, che è nel senso... che parecchio. Che parecchio. No, che è tempo libero, ma è tanto tempo che dedica a fare questa cosa, cucina. Cioè, nelle 8 ore fordiane dedicate a dedicarsi agli interessi personali, alla famiglia, cioè 8 ore si lavora, 8 ore si dorme, 8 ore si dovrebbe fare curare l'anima, Michele, hai scelto di dedicarle al panettone. Spiegaci come esatto. mai. Ma sul come mai in realtà non lo so, nel senso che ho iniziato un po' di anni fa a fare il pane, queste cose qui. E poi probabilmente me lo sono posto come sfida e ho iniziato a fare il panettone. Non che fossi un malato di panettoni, però è un po' il classico corso, come quell'esame difficile all'università, no? Sì. E quindi ho deciso di provare a farlo. E la prima volta è stato complicato, adesso sto iniziando a vedere degli ottimi risultati. Ma dici un pochino, Miki, quali sono i passi? Cioè, metti caso che abbiamo la gente a casa che dice, cacchio, ma anche io mi voglio mettere questo obiettivo davanti a me. Quali sono gli step, in maniera magari non troppo tecnica, per fare il panettone? Sì. Cioè, io non saprei neanche da dove iniziare, sinceramente, quindi motivo per cui ti ho chiamato. Vai su Google, step numero uno. Ma il primo elemento, diciamo che tanti ingredienti li puoi trovare anche al supermercato, però l'ingrediente di base è il lievito madre, quindi se non hai il lievito madre non puoi fare il panettone. Okay. Okay. Puoi fare qualcos'altro, ma non si chiama panettone. Perfetto. E quindi questa è la base. E dopo sugli altri, diciamo così, elementi, in realtà secondo me non è tanto un tema di ingrediente, ma è quasi un tema psicologico. Ok. Addirittura. Sì, ti devi preparare mentalmente al fallimento. Oh, wow! Bellissimo! Sì, no, tema pesantissimo, pesantissimo. Perché, cioè, magari la prima volta è la fortuna del principiante. Ci sta. Dopo ti prende bene, perché magari il primo ti è venuto, e puoi seguire una delle tantissime ricette di qualche maestro pasticcere eccetera, però sicuramente arrivi a fare qualche mega fallimento proprio nel più bello. Questo perché tante cose dipendono dagli equilibri degli ingredienti che ci sono nel panettone. E il primo è proprio quello del lievito. Se non hai un lievito equilibrato giusto, il panettone non ti viene, è molto difficile. E poi l'altro tema è che se ti è venuto bene, considerato che probabilmente sono passati 3 giorni e probabilmente ti è venuto bene ed è pure buono, devi stare attento a non finirtelo in 10 minuti. Esatto. Beh, ma mi sembra di capire, Michele, scusami, che il panetum sia un buonissimo modo per fare tipo bonding con, non so, la tua famiglia, i tuoi amici, oppure quando vai, non so, con il fidanzato o la fidanzata a vivere per la prima volta, dici ok, facciamo una sfida veramente difficile, facciamo il panettone insieme perché ci vogliono 3 giorni, magari fallisci, scleri, stai lì a guardare il forno, va tutto male, no? Un'esperienza di vita. È come dire, non lo so, è l'Iron Man della farina, cioè è una sfida. Ma enorme, dici che è anche la cosa più difficile da fare, da panificare? Beh, sì, sicuramente. Perché in estrema sintesi, tu hai, prima cosa, devi curare il lievito moltissimo nei giorni prima. Dopodiché devi fare un primo impasto con uova, burro, farina e diversi ingredienti. Dopodiché devi aspettare minimo 12 ore che questo primo impasto triplica. E dopo non è finita, devi fare un secondo impasto dove vai a introdurre tanti altri ingredienti, tra cui in ultimo i canditi, e se fin qui è andato tutto bene, che non è detto, festeggiamo, primo tappa, dopodiché lo devi fare le forme, devi metterlo nelle tue formine di cartone classiche che siamo abituati a vedere ovunque, lo cucini con pazienza e dopo non è finita, cioè non è che lo tiri fuori dal forno e dici mi mangio una fetta, no, deve pure stare capovolto almeno 12 ore e prima di tagliare la prima fetta devi aspettare almeno 2-3 giorni. La Madonna! Beh, un grandissimo esercizio di pazienza, cioè forse da consigliare per quelli come Fede, qui tra noi presente, che non hanno pazienza. Ma sì, dopo... Cioè, è un grandissimo esercizio, diciamo che rischi di perderla molto facilmente. Molto facilmente. Molto facilmente. Io non me la sento allora. Ma andiamo sul pratico invece, scusami Miki, ma invece, giusto perché adesso è il momento, allora magari uno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici l'abbiamo convinto a provare a fare il panettone, no? Tutti gli altri diranno ok, lo compro, ma forse più consapevolmente a questo punto, perché avranno capito quanto sbatti c'è dietro il panettone, che poi quell'industriale non abbia tutto questo sbatti dietro, esatto. Meno ok, ma qual è il punto prezzo giusto per, secondo te, per il panettone, diciamo non quello da supermercato ma quello da pasticceria panificio? Sì. Ma allora, prima di arrivare al punto prezzo, il panettone secondo me non vale il detto, sai, alta resa poca spesa, ma è alta resa grande spesa. Ok. Devi partire da ingredienti top. Già ci metti 3 giorni, più magari ci metti pure ingredienti che non sono tanto buoni, quindi devi avere un burro di un certo tipo che è top quality, quindi viene proprio fatto il latte per fare quel burro lì, i canditi di un certo tipo eccetera, quindi tra una cosa e l'altra minimo 20 euro, ecco. Proprio okay, minimo. Vabbè, me lo aspettavo però. Ma Miki, ma tu sai dire panettone? Come? Sai dire panettone? È il panettone. Bravo! Ma ho una domanda, scusate. Ma il pandoro è proprio un'altra storia? No, il pandoro è simile. Ah, okay. Però il pandoro invece lo fai... Allora, più o meno gli ingredienti sono gli stessi, il procedimento è abbastanza simile. Cambia, ha una grande differenza che lo fai su uno stampo... Ma non lo so, di latta, insomma, non so di che materiale sia, però è uno stampo. Ok, non è il cartone, per intendersi, dove lo infili e lui... No, okay, poi no, lo fai su uno stampo, lui lievita dentro il suo stampo, dopo lo cucini e lo devi lasciare raffreddare all'interno del suo stampo. Capito. Poi comunque dovete sapere che Miki ha fatto il primo panettone un tot di tempo fa, e poi negli anni, se non mi sbaglio, Miki correggimi, li ha fatti di diverse tipologie, di diversi gusti. Vabbè, no? Cioè, quali sono stati quelli più matti che hai fatto come panettoni? Ho fatto, ma in realtà non è mattissimo, però è abbastanza complesso, cioè quello al pistacchio. Ah, buono! Nel senso che lo fai già con, come si dice, con l'aroma di pistacchio dentro, la glassa di pistacchio, tutte queste cose un po' golose. Poi uno difficile con il cioccolato, perché il cioccolato è un ingrediente complesso. E, però alla fine il panettone più buono è quello classico. Sì. Puoi provare mille gusti con adesso va tanto di moda quello con la fava tonca. Oddio, cos'è la fava tonca? Dove si compra? Ma che roba è? Ma non lo so, una specie di spezia, qualcosa del genere, possiamo definirla spezia? Ma sì. Per quello non che lo so, io però sì. Dicono che sia buona, io non l'ho mai mangiata. Però forse fa figo, cioè ho fatto un panettone con la fava tonca. Sì. Ah, è tipo il sale rosa dell'Himalaya? Sì, quelle cose là, tipo quelle cose là. Oh, magari qualcuno pensa che sia una persona. Ho fatto un panettone con la fava tonca. Ah, la signora fava tonca. Fava tonca. Quella l'influencer dei panettoni. Esatto. Va bene, grazie Miki. Purtroppo non abbiamo una call to action quest'anno, quindi non possiamo dire... Non c'è la call to action, può essere solo... Vabbè dai, lo mangeremo tutti insieme. Esatto. Va bene, faremo una gran panettonata. Magari abbiamo convinto qualcuno a perdere la pazienza con i panettoni. Poi fateci sapere se effettivamente succedono dei drammi familiari. Proprio su questo, Miki, ti volevo dire ultima cosa. Se dovessi dare un consiglio, uno, alla persona che inizia a fare il panettone tipo mercoledì pomeriggio, un consiglio, un trick di Michele, qual è? Tanto tempo. Primo ingrediente di base. Bello. Dopo, se volete che facciamo uno scambio, magari voi portate le uova e io porto il panettone. Va bene. Studiamo allora per le uova, perché al momento credo che siamo basic. Ma studieremo per essere all'altezza del tuo panettone. Sarà la nostra challenge. Grazie Miki, viva il panettone. Grazie a voi. Ciao. Grande Miki. Io qui lo dico, io sono più per il pandoro. No! L'ho detto. No. Ragazzi, è così. Assolutamente vabbè, no. È così. Io panettone forever, tra l'altro a me fa impazzire, ma... A me i canditi non mi piacciono. A me fanno impazzire. Impazzire canditi. Va bene, pezzo ragazzi, pezzo. Poi cambiamo argomento. E per lasciarvi, facciamo un solito pezzo che fa una transizione, cioè passiamo dal panettone e la sua cottura che ci ha spiegato Michele al semplicissimo, cosiddetto semplicissimo pane, e vi lasciamo con i Camillas, la canzone del pane. Yo te Eccoci tornati. Qua. Bene, adesso che probabilmente avrete tutti finito di mangiare, o comunque starete finendo di mangiare, vi siete messi a discutere con i vostri commensali. Ora, oh, dai, proviamo a fare il panettone. Dai, proviamo. Vi vorremmo parlare di un'altra cosa. Allora, questo è un periodo dell'anno, perché so che tutti volete arrivare a un altro tipo di cotta, ma non siamo ancora lì. E quindi questo è un periodo dell'anno in cui di solito ci si sente ben energizzati, perché comunque si è a metà, insomma, si è appena partiti alla fine. Beh, invece noi siamo distrutti. Distrutti, ma completamente distrutti, direi. La frase siamo... classica del momento è quando chiedi alle persone come stai, ti guardano con una faccia per dire no. Non ce la faccio più. Oppure fanno leggi il vuoto nei loro sguardi. Perché? Perché purtroppo per chi lavora, per chi lavora poi, direi in molti settori, tra una cosa e l'altra, questo è un periodo un po' intenso, se non altro, perché ovviamente, come tutti i periodi, prima che finisca qualcosa, che si rispettino, bisogna chiudere tutto entro le vacanze. Quindi vabbè, insomma, siamo un po' stanchi e con l'età anche peggio, no? Voi eravate più stanchi quando eravate piccoli? Ma assolutamente no. Cioè, a questo punto, quando ero piccola, ero gasata, non stanca. Io forse ero più stanca. Più stanca? Sì. In che senso? Non lo so, forse erano... mangiavo peggio, gli ormoni, non lo so, ero più stanca. Comunque sono still stanca, un po' meno stanca. Okay. Beh, questa è un'inversione di trend notevole. Esatto. Comunque, il momento in cui sono veramente tanto stanca, cioè non che succeda spesso, però così, se io chiudo gli occhi e penso a tutti i momenti della mia vita in cui mi sono sentita... Spossata proprio. Sì. Sono quando torni dalla piscina. Che la piscina è peso. Devastante. È uno dei motivi per cui io non riesco. Cioè, per quanto mi piacerebbe idealmente andare a nuotare anche durante l'inverno, quella sensazione lì da manicotte e spossatezza e occhi rossi, perché poi ti vengono questi occhi rossi orrendi, hai la piscina dentro il naso, l'odore del cloro che ti torna su, tutto fuori sembra ancora più umido di quello che è, ma soprattutto sei morto. No, è il motivo per cui non lo faccio. Esatto, non so, però tendenzialmente la piscina, non so se sono nei film, però nella mia testa è un posto anche dove vai la mattina presto, no? Sì, perché poi ci sono tutti quelli cultori veramente del non essere stanchi. Cioè, a me piacerebbe non essere mai stanca, no? Questo è il mio potere, il potere che vorrei è non essere mai stanca. Invece questa cosa non succede. Ma ci sono i cultori del fare, essere mega sani affinché tu abbia sempre tutte le energie, che dicono che la prima cosa che devi fare quando ti sei svegliato la mattina è A, berti un bicchiere d'acqua, C, B. B, andare in piscina. Andare, fare della... fisico, cioè allenamento nel fisico. Nel mio piccolo, che lo faccio soltanto il venerdì mattina, devo ammettere che ti dà una grossa carica di energia. Sì? Sì. E devo dire che io mi sveglio con i cristi di, con la voglia di morire, che mi dico ma chi me lo fa fare, il giovedì sera entro in ansia per dormire presto, cioè per addormentarmi presto, per non svegliarmi troppo cotta per l'appunto il venerdì mattina, poi vado, faccio questa cosa a un orario indicibile, ma reggo botta poi per tutta la giornata, compresa la sera, quindi forse è vero. Ma mi sento invece di sfadare un altro trend di questo genere. Ci sono quelli che dicono, faccio la doccia la mattina per svegliarmi. Io esco fuori dalla doccia molto più simile a una pera cotta, sia mentalmente che fisico, rispetto a quell'effetto doccia fredda, quell'effetto energizzante che tutti dicono. Io a metà, mi preferisco adesso da adulta farla la mattina rispetto che anch'io. la sera, però in effetti non, cioè quando fai la doccia la sera vuol dire che è un bel momento di self-care, Sì. che ti asciughi i capelli, vai a dormire, Però in bello, generale che io la faccia di mattina, di sera, di pomeriggio, eccetera, a me l'effetto doccia mi fa subito bello. cotta. Forse questo è un argomento un po' da comari Sì, svizzere. forse sì. Fede, Ma tu perché che mi sei sentivate fuori. zitto? Sì. No, perché forse in effetti nel nostro format in cui tu incontri uno o una al bancone del bar Mi e chiedi dici le quando? cose che hai sentito su fuori dal comune, forse questo. Forse non è il caso di No, dirlo. no, Forse non è il no, caso. ci Però, sta. ma ho una serie di cose. Vai, Ho una dici serie una di serie di cose cose, perché ho Marzia. fatto i compiti. Ok. Allora, ho fatto i compiti e ho cercato su Google come non sentirsi sempre stanchi. Allora, queste sono le risposte che ho trovato. Ho trovato dei cibi che ti danno energia, ok? Che non sono le barrette, ma sono cibi naturali, non sono neanche cose illegali. Sono tutto naturale che potete trovare al supermercato o se siete fortunati nell'orto di qualcuno. Raccontacele. Allora, abbiamo germogli. Tipo quelli di soia? Si ipotizza. Si ipotizza. E spinaci. Vabbè, Spinaci spinaci si sa, si sa, braccio perché di sono ferro. composti per vitamine e minerali. Per questa stagione rappresentano un concentrato di vitalità. Per quale stagione si parli? Che comunque c'è scritto ragione. Ha ragione. Per questa ragione, Ma anche per virgola, questa stagione, rappresentano un forse. concentrato di vitalità, ma anche per questa stagione, perché no? Esatto. Poi abbiamo anche le bevande. Andiamo State avanti. prendendo appunti? Io Io sì. sì. Ok. Anche da casa, spero scriveteci su Fuori dal Comune stava preso se avete degli altri consigli da darci, oltre quelli che Appena detto, ho Marzia. appena sto dicendo, Ricercatissimi, tra l'altro. ricercatissimi, intervistando un panel di esperti. Sì. Oltre ad un bicchiere di latte o di bevande È vegetali, sempre WikiWow? no, No? varie fonte verificate. Ok. Oltre ad un bicchiere di latte o di bevande vegetali, il dietista, quello che però ti dice anche energie, suggerisce una buona spremuta, un estratto o un centrifugato di frutta fresca, meglio se preparato sul momento. In caso contrario, è importante verificare di acquistare un prodotto composto 100% frutta e senza zuccheri aggiunti. Ecco, sul latte non pensavo, francamente. Poi dicono soprattutto che il latte più diventi grande, più fa male. Infatti lui dice latte o O. bevanda vegetale, dipende quanto Ah, ti dà fastidio. va piace bene. un Ok, poi sacco ho il una serie latte. di. Ho un elencone di Via, azioni. vai. Allora, avena. Ma non è Che non è un'azione. No, una serie di un'azione. parole chiave. Ah, ok. 13 parole chiave Per non per non sentirsi più sentirsi stanchi. stanchi. Pronti? Vai. Avena! Frumento E fin integrale! qui siamo sempre nell'ambito del cibo, ma andiamo avanti. Noci! Vero? Yogurt greco! Questa nuova? Frutta e verdura generico. Vabbè, ok. Dormire di più. Ah, vabbè, dimmelo Ridurre lo stress. anche. Ok. Muoversi di più. Che sembra un po' contrastante, ma abbiamo Che detto che tra stimola. l'altro, cioè, è tutto divertentissimo perché non c'è nessun valore di questa No. cosa. Cioè, dormire di più di cosa? Di più, di più, Di più. adesso Adesso di più. dormi 8, Più. domani dormi 9. Ok. Evitare di fumare, limitare l'alcol, Ok. mantenere una dieta Nutriente. nutriente, evita l'aggiunta di zucchero, mantenersi idratati. Top. Grande. Ecco. Questa qua era la lista che trovate su banalità.it. Esatto. No, mi sembrano, a volte serve ripetere queste cose basic, però magari ci sono Esatto. qualche consiglio della nonna, qualcuno ci dirà bevete una Red Bull. Sì. Comunque la cosa divertente è che in tutta questa stanchezza di cui stiamo parlando, per il quale ci sentiamo cotti, noi siamo riusciti a individuare due, diciamo, principali, non so se sono, Momenti. esatto, non so se sono cause o effetto, comunque c'è E una quando la questione, causa supera l'effetto e esatto, l'effetto quando, diventa la esatto. causa. Praticamente di base abbiamo grosse problematiche sulla nostra stanchezza fisica, ok? Sì. Quindi hai fatto sport, hai fatto serata, ti sei fatto Madonna, raga, ma vogliamo parlare 2 minuti sì. dell'hangover? 2 minuti dell'hangover dopo i 30 anni? potrebbe essere Dunque, una. io non ho venerdì. ancora 30 anni. Vabbè, allora. Tu non puoi parlare Tu allora, allora non Marzia. puoi parlare se sei ancora in un hangover fattibile. Sì. Io ho bevuto due drink, dico due, evidentemente scadenti, perché ricordiamo che, soprattutto vi ricordiamo che l'alcol aiuta a migliorare la propria E stanchezza. neanche i zuccheri aggiunti. Neanche zucchero aggiunto, quindi tutto sbagliato, A meno però. che non mangiate dell'avena. Vero? Vero? Però il mio momento, cioè io mi sono svegliata sabato mattina, questo è successo venerdì sera, che ho proprio pensato a. Ah, ma perché l'ho fatto? Esatto, cioè con un cerchio alla testa, mi sentivo completamente... Poi due drink. Cioè, due drink? Senso, roba... Posso quindi... darti un consiglio? Sì. Dormire di più! No! Ridurre di più. Lo stress! Mangiare i germogli! Io lo riassumerei con non bere al rondò. Forse, ecco, però vabbè. Dai. E questa è sicuramente una dimensione, quindi la stanchezza fisica che proprio ti prende, sì, perché tu sei fatto qualcosa e sei stanco. E poi c'è la gravissima o importantissima, gravissima forse no, però importantissima stanchezza mentale. Ostia, la mente come... E facevamo l'esempio l'altro giorno del devi fare le riunioni, non so, tipo 4 ore. Tu non è che hai lavorato in miniera ora, noi non, cioè nel senso facciamo un lavoro comunque... Sei non seduto spossante. Su una sedia. Seduto su una sedia davanti a uno schermo. Muoversi di più. Muoversi di più. Bere il latte. Però ti capita che finisci queste riunioni estenuanti, magari chiuse dentro in una stanza, ed esci e proprio non ti funziona il cervello. Desfà. Esatto, ed è quello. Oppure ci ricordavamo di quando finivi gli esami. Oh Madonna, sì. Cioè il giorno che finivi l'esame, il giorno che davi l'esame, sì, la botta di sonno che non ti veniva, cioè, raga. E no. Poi lì non è che eri stanco fisicamente, no. Sì, magari sì, avevi dormito un po' meno degli altri periodi, però anche dormire lì, di più. Dormire di più. No, però è vero, io mi ricordo che davo questi esami, poi tornavo a casa, mi sentivo, no, ma neanche tornavo a casa, cioè letteralmente consegnavo il libretto, mi ridavano il libretto in mano e il mio livello energetico da 12, perché soffrivo di ansia, scendeva in una calata a picco verso lo zero. Terribile. Cioè, tipo, momenti... Comunque ho dei consigli anche questo. La Madonna. Per la stanchezza, quindi, mentale. Ecco i punti. Vai. Per stimolare l'energia spirituale. Esatto. Allora, ecco per come stimolare l'energia spirituale. Muoviti di più! Muoviti, detto con questo isterismo. Muoviti di più. Ok? Se vuoi scoprire come aumentare l'energia vitale, il primo passo che puoi fare è metterti in movimento. Perfetto. Vai. Secondo. Questo... Si lega alla stanchezza anche. Si lega alla stanchezza, sia fisica che mentale. Quindi muoversi, abbiamo capito che... Fa bene. Poi nella puntata sulla pigrizia poi capiremo come affrontare la cosa. Allora, stai all'aria aperta. Fuori, prendere aria. Anche a 6 gradi? Anche a meno 2. Controllare la respirazione. Vero. Non ho tanto capito questo. No, però... perché dicono che se respiri bene... Io faccio yoga, ok? E la mia insegnante di yoga mi dice sempre la maggior parte delle persone non sa respirare. Che tu dici, ma in che lo senso? Lo dicono sempre. In che senso? Però è vero. Nel senso che effettivamente respirare ti aiuta più o meno in tutto. Quindi immagino anche nella stanchezza mentale. Comunque anche questa potrebbe essere una frase fatta. In che senso? Respirare fa la differenza. E beh... È un po' come è un po' come il nuoto, uno sport completo. No, la cottura, il segreto della cottura. Il segreto della cottura. O come la segreta della... Oggi è così, questa puntata è frasi fatte. Poi scoprire la meditazione. Vedi, si lega. Però dice yoga. Scoprirla e poi capire, farlo. Okay. Pensare positivo. Ok. Perché sono vivo, perché sono vivo. Lavora sul tuo riposo. Qua si fa sempre il paio con la stanchezza fisica. E ultima, pure l'alimentazione. E anche questa mi fa il paio. Perché la tua mente stimola il tuo corpo. Bellissimo. Comunque possiamo fare una chiusa finale prima di passare al prossimo argomento e mettere un pezzo? Certo. Potete dire una cosa... Tutti, anche gli ascoltatori da casa, gridatela. Una cosa quando sei troppo stanco per fare, a volte sei troppo stanco per... La doccia. Svestirmi per andare a letto. Lavarmi la faccia. Pezzo! E che pezzo! Vi lasciamo con No Stress di Capoplasa. Pensavate a quella, eh? Ok, allora... Ehi, sai che c'ho dei piani da sviluppare. Tutte ste mani sono maledetto. Solo con te mi sentivo protetto, baby. Girando quei bro, nella city non voglio più oh. Se io amici voglio solo gold chain e amiri, yeah. Giro per strada sì all night. No snitch, baby, tu sei un 6ix9ine. Non pit stop in deadline. Quei pitbull e pit bike, no bullshit. lei dice ti amo ma mente, nessuna che mi dà niente. Siamo stretti in una mini, yeah. Luce andiamo in paranoia, wow. Hai fame caccia canini, yeah. Lascia perdere una troia, wow. Dico calmo sia il mio amico, in testa c'è una rapina, avanti ci abbiamo un bivio, tutto andrà meglio di prima. No bullshit, no bullshit, per chi sogna c'ha niente, per chi lotta da sempre. Tu c'hai il pane ma non hai i denti, per chi mette la tuta e vende, per chi studia tutta la notte. Entrambi vogliono qualcosa, mille spine manco una rosa, yeah. Nella CD, da tre come corri, ey. Siamo ancora vivi, ey. No, no, non ci fermi, ey. Sul collo metto dei VVS, tu non vivi, vivi un po' no stress. Sul polso metto dei VVS, rolli pote cao de marpiche. Yeah, you can't hang in my city. I'm a top dog in my city, yeah. Just let me know if it's litty, yeah. You know I just want you to feel me. Get the pump, let it go, shotgun, hit his back like he Ricky, yeah. Just let me know how you feeling, and I'll let you know how it's going down. She gave me head in a billion, did it until I had my head up in the clouds. Better watch how you talking to me, for your body end up in the motherfucking lost and found. Graduated the streets, only wore a gown. I put up with a beanie on bad time, cause I really hate cow. I'm in love with bad bitches. She just wanna vent to me, I curved her. I was only wishing that I could turn her. No sleep for 2 days, recording. Then go in a 24-hour coma. Gang gang nella CD, da tre come corri, siamo ancora vivi, no no non ci fermi, su collo metto dei VVS, tu non vivi vivi un po' no stress, sul polso metto dei VVS, non mi fatto che tu mi picchi. Gang gang nella CD, da tre come corri, siamo ancora vivi, no no non ci fermi, su collo metto dei VVS, tu non vivi vivi un po' no stress, sul polso metto dei VVS, non li fate caude marpiche. Ma suma, suma, suma, suma, suma, suma, suma lo sfumine, sfuma, sfuma. Eccoci qua. Eccoci. Ok, Ava. Eccoci. Beh, allora, Oh, finalmente. Finalmente arriviamo al main topic di questa incredibile puntata sulla cottura, che è forse il main topic che vi aspettavate tutti da, direi, un'ora che abbiamo iniziato. Un'ora. Forse un'ora. Abbiamo perso tutti i nostri ascoltatori. Forse sì, perché aspettavano questo momento che lascerò introdurre a te, Marzi. Che momento soltanto, è? Vi dico soltanto che mi è arrivato un messaggio che ho scritto: oh, ma quando è che parlate di sentimenti? Eccoci. Eccoci, eccoci, eccoci. Siamo arrivati. Allora, adesso vorrei che tutti vi pensiate alle medie. Okay. 12-13 anni. Va bene, ce l'ho. Siete all'oratorio estivo. Non ho fatto l'oratorio o qualcos'altro? Siete all'oratorio estivo e lo vedete. È lì. Si chiama Noah. Noah non esisteva a Gazzada Schianno. Si chiama così. Ok. Ha il suo skateboard. Ok. Ginocchia sbucciate. Mm-hmm. Si gira e vi saluta timidamente. E non ha un dente. Non ha un dente. Io lo saluto. No. Tu a quel punto Rossa imbarazzata. Però poi cammini verso di lui e mm-hmm. gli dici: ehi, ciao. Più alto. E allora iniziate a parlare. La scuola, gli amici. Ehi, come ti sei sbucciato le ginocchia? E poi lui riceve una chiamata. È il suo bro. Ah, quindi siamo in un'epoca in cui esistono i cellulari? Sì, bro. Okay. E dice: ciao bro. Ciao fra. Ciao fra. Vieni poi? Qua. Ok. E lui dice: ciao, devo andare. Ci vediamo. E vi lascia lì. Okay. In mezzo al parchetto, all'oratorio. Che sad story. Con il cuore a mille. E a quel punto c'è solo un pensiero che avete. Mamma mia, che regia. Qual è il pensiero che abbiamo? Questo! Oh. Non l'ho capito. Dreams are my reality. Scusami. E vi ricordate quella volta in cui avete visto Il tempo per le mele per la prima volta? Posso dire, un film bellissimo. Io non l'ho mai visto. Davvero? Giuro. No, ho capito. Marzia è andata via. No, Marzia è andata. Vai. No, io non l'ho mai visto. Cioè, ho visto solo la spezzone di loro due che si baciano. Gravissimo, è gravissimo. Il tempo delle mele è un film bellissimo che io consiglio a tutti di riguardare tutti gli anni, sempre. Okay. E di pensare a lui o a lei, la cotta della vostra preadolescenza, perché le prime cotte vere arrivano quando hai quell'età là. Sì, è vero. 13 anni, 12 anni. Io avevo preso questa cotta bestiale per questo compagno delle elementari. Elementari addirittura? No, sì, beh, forse erano medie. Vabbè, fine elementare, inizio medie. Era una bambina precoce con i sentimenti. Ok? E c'era questo ragazzino che mi piaceva tantissimo. Ho detto mia mamma, ma forse questa roba ve l'ho già raccontata. Comunque, e avevo detto mia mamma che mi piaceva per tre motivi fondamentali. Idee chiare. Uno, gli occhiali, perché lo facevano un tipo intelligente. Certo. Due, l'apparecchio, perché non si è capito come mai a un certo punto l'apparecchio tirava, soprattutto se con gli elasticini colorati. Ok. Tre, lo zaino dell'Invicta con dietro un disco dove c'era la tasca più bassa. Marghe, posso dire che nessuna di queste caratteristiche era propria di questo Cristiano? Come no? Erano tutti oggetti. Era cose che non facevano parte di questa persona. L'intelligenza... Forse ipotizzata, esatto. Ah no, l'ultima è imprescindibile, era il nome. Ah, che si chiamava? Leonardo. Bello Leonardo, un bel nome. Sì. Come la tartaruga. Comunque ninja. Nulla di questo, probabilmente a 12 anni, 11 anni se l'è scelto lui. No. No, no, magari lo zaino sì, però. Magari lo zaino. Sì. Ma cioè, hai mai parlato con Leonardo? Ovviamente no. Okay. Ovviamente no, lo lumavo così da lontano. Comunque questa è un tratto fondamentale delle crush adolescenti, non parlarci mai. Ovvio. Per non rischiare. No, io stavo, a parte che volevo dirvi che avete fatto un'introduzione completamente dal lato femminile, basta, quindi. Sì, è vero, abbiamo un po' hai ragione. Va bene. Lo vuoi rifare? Io ci sono. No, va bene. Facciamo? Così. No. Vabbè, raccontaci la tua crush. No, invece in realtà stavo pensando io che il caro Leonardo, cioè sì, se fosse al mio Leonardo, il tuo Leonardo, okay, cioè con gli occhiali, sì, gli elasticini colorati, sì, e lo zainetto, sì, col disco, all'Anna Frank probabilmente l'avrebbero menato. Ma perché hai fatto una scuola da media. Bulli? Esatto, la mia scuola media sarebbe stato chiuso in un bagno e riempito di Vinavil probabilmente. Vabbè, quindi io lo trovavo bellissimo. Sì, forse solo tu. Ma questa non è la puntata sul bullismo. Non è la puntata sul bullismo. Volevamo parlare un po' con voi della vostra prima cotta e soprattutto di come ve la vivevate all'epoca e di come ve la vivete oggi. Sì, delle vostre cotte in generale. Le differenze. Allora, ma io sempre, ovviamente, con la prima regola della cotta, mai parlare con la cotta. Okay. Ah, tu questa l'hai continuata, l'hai portata avanti negli anni? Allora, più cresci, più... Più cerchiamo di parlarci, Marzi, dai. No, più mi diviene difficile dire che ho una cotta. Ho capito, però... Vabbè, però... Vero. No. Però, ecco, forse è più difficile parlare di una cotta. Vai subito poi nello specifico. Mi spiego meglio. O è tipo... Ok, quella persona mi stimola delle idee erotiche. Ok. Ok. Delle vibes erotiche, dunque mi piace molto fisicamente e così. E quello potrebbe essere anche un passante X, diciamo. Sì, vabbè, dai, okay. Ma può anche essere un vips. Sì, cioè, sì, il tema comunque, è che c'è quello che dici, che non lo conosci. Sì, vabbè, sì. Questo mi stimola qua. Quello di cui pensi, oh mio Dio, vorrei che fosse il padre dei miei figli, che forse è più simile alla cotta. E poi quello super interessante. Però ecco, ma definiamo la cotta. No, per me la cotta, secondo me la cotta è proprio uno o una che vedi una volta e dici Ma è quello con cui ti fai il film, che domani ti chiedi di sposarti, sì, devi presentare però in famiglia. Però magari non per forza la prima volta, però inizi a pensarci. Cioè diciamo, facciamo così, ti immagini con lui a fianco, lui o lei a fianco. Sì, vai molto veloce con i pensieri. Cioè arrivi al punto in cui La cosa, avete già fatto un sacco di esperienze insieme. Sì, è per quello che non riesci più a parlarci, perché tutte volte che ci parli o che provi a parlarci, poi cioè già vissuto una vita insieme. Hai già vissuto una vita insieme, non può rovinare la vita che avete già vissuto. Quindi forse di base bene, è già finita. Forse è un bene che non ci si parli poi con questa persona. Forse sì. No, ma io mi immagino che delle cotte poi si tramutino in storie. Per i più fortunati. Per i più fortunati. Capita. Può capitare. Però la cotta è proprio quella roba là che dici, lo vedi nei corridoi, perché è proprio una roba, sì, che io sì, è un po' liceale, sì. Oppure che tu vedi anche per strada così e dici e l'istinto non è quello di andarci a parlare, ma di nascondersi dietro una macchina. Beh, allora, in una cosa mi sento cambiata, nel senso che quando avevo la cotta, quando ero piccola, partiva cose di mutismo. Io mi ricordo, raga, scusate, non c'entra esattamente con la coppia, ma con la cotta, ma simile. Io dovevo dare, ero al mare, ok, avevo questo appuntamento con un mio amico che era poi il mio fidanzatino in quel momento, e sapevo che sarebbe arrivato quel dato pomeriggio al mare. E quindi avevamo questo appuntamento del bacio, quindi il mio primo bacio con la lingua. Uh-huh. Io mi sono... Tutto già programmato. No, vabbè, perché... via penna, tra l'altro. Sì, perché ci scrivevamo queste lunghe mail o messaggini, non mi ricordo. Vabbè, avevamo questo scambio epistolare, perché io stavo a Gazzada Schiano, lui a Genova, quindi non era semplice, no? Quindi sapevamo che ci saremmo visti poi al mare, e quindi sapevo che lui sarebbe arrivato, e sapevo anche che dovevo limonarlo a quel comunque punto. Comunque è la storia perfetta per un catfish, questa qua. Sì, totale. Cioè, tipo... Fatto sa che era un mio lui amico. Lui era Leonardo, in realtà. Era una cotta che era nata dopo un periodo di amicizia, quindi okay, comunque sapevo okay. Chi era. Dunque lo aspettavo per l'ansia, mi sono chiusa in cabina tutto il pomeriggio. Non sono letteralmente uscita dalla cabina finché lui non ha cambiato spiaggia. Dicendogli non sono ancora arrivato, ho trovato traffico. Credo neanche no, ma credo neanche giustificando la cosa. Cioè, ero talmente terrorizzata che mi ricordo che mi ero chiusa dentro la cabina perché avevo paura di questa cosa della lingua che mi era stata poi ovviamente descritta dalle mie compagne, diciamo, delle mie amiche anche più piccole di me, come un polpo che ti si infila nella bocca, cioè cose che oh raga, cioè già ti stai cacando addosso, c'è la tua crush, tutte ste robe, e questi qui ti dicono ah sì sì, è come limonare un polpo, non è che ti viene proprio voglia. No, però con la tua cotta questo rovina tutto, questi sono i momenti che rovinano tutto. La cotta infatti per me potrebbe essere anche perché non è l'amore platonico, è proprio quando ti sbatti la testa e dici continuo a pensare solo a quella roba là, a quella persona lì, ma cioè, senza aver verificato non solo l'interesse reciproco, ma anche che tutti i film che tu ti sei fatta su Leonardo, cioè il fatto che fosse veramente intelligente, Leonardo, lo sappiamo. Ma allora, no, però aveva... Assumption. Diciamo così, non è stato bocciato, quindi possiamo definirlo comunque, se non una persona intelligente, una persona che studiava parecchio, studiava il giusto, ok. Quindi non è stato bocciato. Io non sono mai stato bocciato, ma non ho nemmeno mai studiato parecchio. Quindi però magari sei intelligente, quindi capito, no? Cioè stiamo dando delle assunzioni. Quindi questo. Poi di fatto non ci ho mai parlato, quindi no, non lo sapevo. Capito, alla fine. Comunque, ho una guida. Ok. Ho una guida per sopravvivere nel caso in cui ha quasi 30 anni, per chi ha quasi 30 anni o 30 anni, ha ancora delle crush, magari è possibile, la cotta a 30 anni, quello lo approfondiamo, anzi scriveteci, secondo voi è ancora possibile avere una cotta a 30 anni? Ci sono 4 metodi che vi consigliamo per appunto. Quindi scusate, la cotta a 30 anni è ancora possibile? Non lo sappiamo. Ok. Secondo voi? Secondo me sì. Secondo te sì. Secondo me no. Secondo me sì, ma... Hai troppi scheletri nell'armadio per innamorarti così. Ma non ti innamori, è diverso, Marg, è diverso. Continui a pensare solo a quella roba là per tipo 2-3 giorni. Ah, poi basta, svanisce. No, magari continua, però a quel punto decidi, no? Secondo me a un certo punto, a 30 anni, cioè tipo le mie cotte del liceo durate per anni. Anni senza mai parlare con nessuno. E adesso... Neanche gli amici, neanche i genitori. No, senza mai... perché poi il tema era che quando tu da adolescente dichiaravi la tua cotta... Sì, venivi sgamata, ciao. Era la ciao fine, core, ciao cuore, la fine. Ti venivi presa in giro, quando lo vedevano ti dicevano... Ah, l'hai visto? L'hai visto? Guarda, è diventata rossa! Lo sai, lo sai! tu, cioè, volevi sommorire. Comunque, no, dalla chat dicono rara ma ancora possibile. Rara ma ancora possibile. Ah, dai, più o meno come ho detto io. Allora, primissimo metodo. Vai. Allora, il metodo numero uno è... Questo è però WikiHow, diciamolo. No, questo è la mia fonte. Ok. Handling your crush, quindi gestirla. Vabbè. Allora, prima scelta che puoi fare è gestirla. Come la gestisci? Quindi sono quattro metodi con delle guidelines. Dei sottopunti. Esatto. Allora, decido di andare per gestirla. Cosa faccio? Copio il loro body language. Loro fanno così, tu fai così. Prendono un caffè, bevi un caffè. Specchio, prendono una birra. Prendono... Ma scusa, ma ti dico, basano tutta la vita a dirti non buttarti dalla finestra. Ma questa è la cotta. Ah. La cotta non vale con nessun'altra regola che ti hanno insegnato. Quindi fino ad tu oggi. Tu continui regola... a pensare a quella persona là, hai proprio la botta in testa. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Un fai coglione. Le sue... Esatto, fai le sue stesse robe. Prendi il tram, prendi il tram. Ma questo non è un bel consiglio. Questo... E non è sicuramente un modo per gestirla. Ma andiamo avanti. Ma tu lo sai se funziona? Non lo sai. Non lo sappiamo, vediamo. Esatto, vediamo. I miei esperti lo sanno. Poi, secondo punto. Fare i normali. Che... Cioè, scusami, no. Ma mi hai detto che devo fare tutto quello che fa lui, se io normalmente non lo faccio... normalmente, come se ti venisse normale. Be yourself. Vabbè, di fatto è una scena, è un teatro. Ehi, la devi gestire in qualche modo. Devi gestirla, devi gestirla. Ma siamo ancora su come gestirla. Sì, sì, sì. A un certo punto, se non ce la fai più, cioè se questa roba ti sta andando mandando i matti, non ce la fai più, vai via. Vomita. Vai via. Ma che guida è? Vabbè, andiamo avanti. Vai via. E poi a un certo punto, quando sarai a casa a pensare a questa cosa, piangi. No, fai cose che ti facciano sentire bene. Fatti una maschera, dipingi, fai quello che vuoi. Comunque, mi immagino tutta questa scena in cui tu hai fatto tutto quello che faceva lui o lei. Poi hai detto, com'era la seconda? Sì, normale. Sì, okay. Normale. Quindi sì. Hai fatto tutte queste cose imitando questa persona. Ah, ma è normale che io mi infili. Poi, sì, normale. E poi a un certo punto, in retromarcia, facendo esattamente le stesse cose, ma camminando all'indietro, vai via. Cioè, in realtà è un esercizio di mimo. Esatto. Esatto, esatto. Mimo con anche sparizione. È teatro. Ma magari funziona. Teatro, raga, l'ho detto, teatro. Vabbè, la seconda, secondo, se voi non ve la sentite di fare questa roba e quindi andare, allora a quel punto parliamo di sentimenti. Quindi capiamo se è veramente una crush. Okay. Scrivete esattamente, mettete nero su bianco perché vi piace, perché magari come in questo caso ci rendiamo conto che... Ah, tipo i pro e contro? No, o no, perché? Okay. Ah, perché ci piace. Esatto. Poi parlatene anche con un amico o un'amica. Ok. Parate un attimo. Sempre sul fatto che ti piaccia. Con la psicologa? Se è tua amica, sì. Sì. Ma è difficile che sia amica, però... Vabbè. No, con la psicologa... Friends, mainly friends. Poi a un certo punto dici... La prendi sul bene, dici... L'ho già detto quello, così ci ridi su... Se ogni tanto così ci guardi fuori dalla finestra e vedete sposati con figli... Uh-huh. Vai, stacce. Mentre sei in motorino e sorridi... E poi a un certo punto, dopo 2-3 giorni che è passata questa cosa, inizia a scrivere, prendi il giorno, la cosa che avevi scritto i primi giorni, inizia a dire tutte le cose che non vanno bene di questa persona, poi le guardi e dici, vabbè, ok. Ma ci siamo già arrivati al disinnamoramento. Non è un innamoramento, è una cotta. Va bene. Ok, metodo numero 3. Provarci. Cioè, non solo andarci dritta, ma provarci proprio. Quindi non solo imitarlo come se fosse uno specchio, ma a quel punto... No, a quel punto metti in campo queste cose. Uno. Fai una cifra di domande open-ended, perché così le fai parlare di loro. Quindi non sì no, ma tipo cosa ne pensi di questa roba? Ok. Poi magari lo imiti anche. Okay. Mentre ti sta rispondendo. Ti fai tipo i versi. Allora, dopodiché... vuoi approcciare la cosa, quindi devi però sei ancora un po' timida perché comunque è una cotta, quindi sei un po' sbarellata. Timid. Esatto. E a quel punto inizi a dire delle cose per far sì che lui ti chieda di uscire o lei ti chieda di uscire. Questa cosa è molto inquietante. No, quindi... Tipo? Non lo so, dice... vorrei tanto vedere quel film. Ah sì, lo vorrei tanto vedere anch'io. No, ecco, però queste cose sono insopportabili. No, dai, questo è abbastanza normale anche, dai. Cioè, se lui... a quel punto dici, avrei voglia di vedere questo film, vieni con me. No. No. Nella lista di Marzi non può succedere questa cosa, quindi no. Allora, se tu ti senti così comfortable, però devi avere una cosa, una data bene in mente. Ok. Devi andare dritta, okay. Scegliere un'attività. Poi, ultima cosa. Sì. speriamo partire con il piede sbagliato, cioè partire già dicendo questo non mi vorrà, basta, non è possibile. Okay. Anche perché magari il professore, che ne sai, una roba. Ma che guida è? Di solito invece ti dicono, ma io questo non lo... Partire col piede sbagliato? Cioè autosegarti? Segarti non... Dico autosegarti nel senso di dirti... Dalla chat dicono, Marzi, questo è il manuale di come farsi balzare. Esatto, grazie. Grazie Marta, grazie. Grazie Marta, esatto, grazie perché... No, io ho fatto una sacca di interviste con degli esperti, mi hanno detto tutti questi. Comunque... Ma forse non hai parlato con me, la Marghe e Marta, esatto. Quindi, prima di condividere comunque, questa cosa. Comunque, posso dire l'ultimo metodo? L'ultimo metodo è partire già e dire, ok, me la metto subito via perché questo è impossibile. Magari è fidanzato, fidanzata, cioè, insomma, c'ha le sue robe. E allora ti fai questa domanda, ma questa persona, questo sentimento che io sto provando, che conterà ancora qualcosa tra 5 anni? Vabbè, ma allora, Marzi, scusami un attimo, se questa ma è una cotta, non è un innamoramento, è una cotta, è diverso. Ma quindi la cotta di per sé deve finire nel nulla? La cotta deve prendere... No, la cotta è diverso, il modo in cui tu ti approcci alle cose. Cioè, qualcosa di psicologicamente assolutamente labile e del tutto immotivato? Certo! Ah, vabbè, ok. Non l'ho visto io questo film, forse è per questo che non lo capisco. Ma lei faceva così poi, lo sfanculava? No, loro erano adolescenti. Era un disastro. Ah, vabbè. Era un disastro. Quindi, il riassume di questa roba è... un inetto praticamente. No, non un inetto. Tu praticamente la cotta è quando sbatti la testa contro qualcosa. Quindi ti rendi conto fin dall'inizio che c'è qualcosa che, cioè, che non è normale. Non è che ti dici ti piace uno, cazzo mi piace uno o okay. Mi piace una. Quindi sei nella sfera dell'irrazionalità. Nella sfera dell'irrazionalità pure. Infatti anche lei fa di tutto per lui. In maniera, fa di tutto per lui. Poi dopo si arrabbia, tutta una serie di cose. Angosciante okay. Poi dopo lui arriva, ci sono queste cose assurde, lui che ti mette le cuffie, Dreams and My Reality, bellissimo. Detto ciò, poi tu vai a casa e decidi quale dei 4 metodi adottare. Okay. Uno, ottimo. Non riesci a decidere, quindi vai col primo, quindi lo copi, così poi te ne vai. Lo fai col primo che passa? No, te ne vai! Scusami, non avevo capito. Okay. Il secondo, riassumendo, il secondo è... Sì, normale, quindi inizi a chiedergli un po' di robe, bla bla. Il terzo è cerca di razionalizzare un po' questa cosa, però ancora mettici delle speranze. Il quarto è stroncale tu. Abort. Chiediti la domanda. Vabbè, conterà ragazzi. Ancora qualcosa in 5 anni? Boh. Questa qua sarà la domanda che ci starà nel cervello per un sacco di altro tempo. Detto questo, abbiamo parlato di cotte, abbiamo parlato di innamoramenti giovanili e abbiamo pensato che, e anche no, perché abbiamo detto che si può avere una cotta anche dopo. Più rara. Non si sa ancora, comunque nessuno ha dato una risposta certa momento. A questa domanda. Più rara, ma si può fare. Di certo io non mi metterei a mimarlo. io vorrei provare. Vabbè. E quindi mettiamo un pezzo che è stato descritto da me come la hit, perché mi cito anche, okay. Come la hit che avrei voluto avere a 16 anni. Da alla tua prima cotta. Alla mia prima cotta, alla mia ma seconda. Ma scusa, posso dirlo? Puoi dirlo ora? Cosa? Come si chiamava? La mia prima cotta. La tua cotta, main cotta. No, la mia prima cotta, c'è una storia divertentissima, perché la mia prima cotta, non so se la possiamo definire tale, però era... una bambina che veniva all'asilo e io anch'io andavo all'asilo ancora prima di me raga io ho detto elementari no ma la storia è bellissima perché questa bambina che era non so se definire una cosa comunque era questa bambina che mi piaceva era un pochino più piccola di me che si chiamava Arianna e io ho scelto il nome di mia sorella Arianna proprio partendo da questa Arianna una cotta molto romantica bella. Mia madre sa sicuramente come si chiamava anche di cognome questa persona quindi potremmo cos'è Arianna come è diventata? Chissà Arianna come è diventata, non mi ricordo come si chiama di cognome, però diciamo che questa qua è la mia prima cotta, se possiamo così definirla. Okay. Detto questo, qualche anno dopo avrei voluto avere questa canzone, perché all'epoca non ce l'avevo. Quindi vi lasciamo con Mecna e Coco, la più bella. Cosa penso? Come se mi guardassi dentro. In ogni mio silenzio c'è qualcosa di più di tutto quello che a parole io non ti ho detto mai. Anche se con le parole ci so fare. vita via. E ogni volta che mi svegli penso: sei la più bella del mondo. Sei la più bella. Sei la più bella per me. Vedo la testa. Ed era tutta la vita che. Tutta la vita che. Non aspettavo che te. Non aspettavo che te. Mi piaci da impazzire. Mi piaci più delle Nike, mi piaci più delle cose che non ho avuto mai, più di un ombrello se piove, di un milione di like, di un milione di copie, più di un ciao come stai scritto alle 4 di notte. Mi piace più della pizza il giorno dopo, di una bella notizia un disco d'oro, di un hotel con vista un sushi a Tokyo, di un tramonto di pizza rosso fuoco. Mi piace più dell'America, di un pezzo che non si dedica, più degli insegni a Las Vegas mentre guardiamo una replica nel mio letto una domenica e non vuoi più andare via. E ogni volta che ti guardo penso: sei la più bella del mondo. Sei la più bella. Sei la più bella per me. Vedo la testa. Ed era tutta la vita che. Tutta la vita che. Non aspettavo che te. Non aspettavo che te. Sei la più bella del mondo. Più di una pioggia che può spegnere un inferno. Non ho più dubbi se ogni volta che ti guardo penso: sei la più bella del mondo. Sei la più bella. Sei la più bella per me. Vedo la testa. Ed era tutta la vita che. Non aspettavo che te, non aspettavo che te, sei la più bella del mondo. Sei la più bella, sei la più bella per me. Vedo la testa. Ed era tutta la vita che. Tutta la vita che. Non aspettavo che te, non aspettavo che te. Mi piaci da impazzire. Oh, mi piaci da impazzire. Ci hanno pensato, eccoci, Coco e Mecna a mettere in fila tutte queste banalità che, esatto, avremmo sempre voluto dire. Ma chiuderei il tema con l'aneddoto di Marzi che ci ha spoilerato in questa pausa. Esatto, cioè praticamente, dato che appunto uno degli atteggiamenti con cui si affronta una cotta, come abbiamo detto, è non affrontarla e stare zitti e sperare che nessuno lo noti, okay, ovviamente a 16 anni, 15 anni, insomma, questa cosa non mi è uscita tanto bene, okay, e quindi tutte le mie amiche sapevano chi era la mia cotta, e quindi al mio compleanno a 16 anni le mie amiche in classe, tipo davanti a tutti, mi hanno fatto... Ma davanti anche alla tua cotta? No, per fortuna no, hanno avuto questa decenza, mi hanno regalato il suo numero di telefono. Vabbè, io la trovo geniale, però vedi, ti spingevano all'azione, cosa mai ben usato. Diversa, esatto, cosa ben diversa da quella lista di... consigli. Forse gli dovevo scrivere, tipo dovevo andare, ma in realtà un po' lo facevo adesso che ci penso, perché tipo io andavo ogni tanto sul suo MySpace. Ah, bello, certo. E un po' copiavo le canzoni, dai. Ah, quindi ok, qui è il tuo mimo. Erano il tuo mimo, questo è il mio mimo. Okay. Credo adesso, infatti, io alcune canzoni mi piacciono perché forse piacevano a lui. Ma lui non lo sapeva comunque alla fine. No, non credo no, boh, forse nella vita qualcuno gliel'ha detto. Alla non fine lo so. Forse sì, alla fine forse sì. Chissà. Alla fine forse sì. Chissà. Ma siamo scivolati così verso l'epilogo di questa puntata, riproponendo il nostro format, la nostra rubrica, il nostro appuntamento settimanale, non proprio tutte le settimane, ma N. Settimanale di quando ci siamo. Di quando ci siamo, che è, sigla, le altre notizie della settimana! Che ricordiamo essere quelle notizie decisamente poco importanti o anche importanti che ti puoi spendere sempre in quella situazione in cui ci siamo detti, sei small talks al bar, stai cercando di mimare la tua cotta. E... Ma lui fa una cosa sgradevole e quindi tu non puoi mimarlo. E quindi cerchi di ossessionarlo di parole. Esatto. Quindi se non vuoi parlare di panettoni, come vi abbiamo detto, non vuoi parlare di vasi, dell'arte di fare l'artigiano, il designer. Oh, ma tu cosa ne pensi? Se senti più artigiano? Se tu fossi un artigiano, che tipo di artigiano saresti? Ma ma gli artigiani di oggi esatto sono forse gli artigiani di domani, chissà, chissà. E non vuoi parlare sicuramente di quanto si cuoce un uovo, anche perché abbiamo detto domande aperte, questa è una domanda qui chiusa. Vogliamo parlare invece di altre cose. Esatto. E quindi che cosa è successo questa settimana che magari i nostri ascoltatori si possono essere persi? Allora, la scorsa settimana, mentre noi non eravamo in onda, quindi nella settimana che ci prendiamo di riposo da questo lavoro difficilissimo che ci troviamo a portare avanti bisettimanalmente, è uscita la famosissima serie di Zero Calcare. Sì. Strappare lunghi bordi. Non parleremo della serie, ma parleremo di un, diciamo, una... Anche perché di quella ci parlano tutti. Esatto, una side story che è nata come critica nei giorni seguenti, non sull'accento di Zero Calcare. No, quella è già troppo non chiacchierata sui temi come cosa. Di Zero Calcare, ma più che altro su quanto male se n'è presa questa storia le persone di Biella. No, la città di Biella. La città di Biella e anche tutte le persone, i biellesi. Il sindaco di Biella che si guarda una sera, dice vabbè ma che faccio stasera, mi guardo la serie di Zero Calcare. Netflix. Dopodiché comincia a incadere in un baratro di disperazione e rabbia evidentemente. Esatto. Perché? Che cosa dice il sindaco di Biella? Il sindaco dice che noi a Biella siamo tutte persone felici e non è vero che Biella fa suicidare le persone. Esatto. Qui abbiamo fatto un enorme spoiler, però detto ciò. Scusateci perché non è morto visto. Zero Calcare, no, per no, fortuna. No. Però c'è un personaggio della serie che appunto torna a vivere a Biella e poi si conclude la serie con, appunto, con la tragica notizia che questa ragazza ha deciso di togliersi la vita. E grazie per averlo spoilerato. Le persone di Biella l'hanno detto, no ma Biella è una città felice, bellissima. Biella è una città... Allora, non sono del tutto d'accordo. Tra l'altro. Anche perché mi è un po' collocata in quella zona di Merdor tra la Lombardia e il Piemonte. Cioè, sì, è Piemonte a tutti gli effetti, Piemonte, però boh, Biella sì, non è che insomma, sia non è Torino. Per essere divertente e tutto quanto. Quindi il messaggio che volevamo dare qua è non fate la parte mega boomer dei biellesi, raga. Cioè, nel senso, Zero Calcare non ha dato nessuna colpa a Biella di per sé, anche perché non è la causa. C'è una... Sta entrando il sindaco di Biella. Oddio, ma prego, si sieda. Ha qualcosa da dire a riguardo? Aspettate che si sta sedendo, si è tolto un attimo la giacca. Prego, le cuffie sono queste. Zero Calcare venga a trovarci. Biella non è una città morta. Quello di venire a Biella per scoprire una realtà diversa da quello che si aspetta. Lo ospiteremo molto volentieri e verrà accolto un territorio che ha tante cose da offrire e un sindaco che sorride. Me lo diceva anche Ceruti, che sono uno dei pochi del mio ruolo che sorride così tanto. Ma non è di Parma. No. Perché è l'erba. No, però il sindaco... Ma io sono originario. Esatto, il sindaco è nato a Parma. Ma poi arrivederci. Grazie mille, grazie. Davvero gentile. Wow, che gag. E quindi appunto il sindaco molto... ci è rimasto un po' male per questa storia, però gli vorremmo anche dire che adesso stacce, è uscito. Posso dire. Stacce. Altra notizia, vabbè, questa qua è fresca, sempre, oggi abbiamo solo vorrei notizie. Vorrei dire al sindaco di Biella, non so perché, però glielo vorrei dire, we can live like Jack and Sally if you want. Ok. Vabbè, che un po' clara, un po' macabra, manca un po' cotta. Esatto, okay. Nel caso. È tutto in uno. Altra notizia che purtroppo non siamo i primi a dirlo, però è una notizia sicuramente più sicuramente non siamo i primi a dirlo. Non siamo i primi a dirlo. Come sapete, ieri è stata annunciata la dipartita, la morte del carissimo Virgil Abloh. Grandemente creativa, probabilmente una delle più grandi menti creative che abbiamo avuto negli ultimi anni, sia per quanto riguarda la cultura, sia per quanto riguarda la musica. Se ne va un grande e la riflessione che ho pensato in questi giorni è come aver visto in questi 24 ore da quando è stata annunciata la sua morte, perché era ieri sera più o meno a quest'ora, tutte le bacheche di Instagram, Facebook e qualsiasi cosa riempirsi di contenuti, alcuni molto, molto sensati, che appunto ha avuto maniera di condividere con lui un pezzo di vita o di esperienze, ma anche gente che tipo compra le cose all'OVS. E quindi Vabbè. Scusa, che non può piangere la dipartita di Virgil Abloh? No, mi sembrava una cosa un po' per riempirsi e tentare di far parte Vabbè, del mondo. Vabbè, ma raga, come tutte queste occasioni no, qua. No, però nel senso di far parte di un mondo che probabilmente ci appartiene. Beh, X. Posso raccontare una cosa a questo, beh, certo, a questo proposito? Sì. Allora, tipo, non so che anno fosse. Tipo, non so. Correva l'anno. Correva l'anno, non so, tipo 2005-2006. Ok. Morì Gianfranco Ferré. Gianfranco Ferré, stilista di Legnano, mia hometown, nonché stilista. Quindi si celebrano i funerali di Gianfranco Ferré, quindi con tanti VIP, nella chiesa di Legnano principale. E io e la mia amica e la mia amica decidiamo di andare al funerale. Okay. E non solo di andare, ci vestiamo di nero, no, e vabbè, anche eleganti. Non sto male, ok. Ci andiamo al funerale. Arriviamo, funerale alle 2 di un pomeriggio di luglio. Okay. Quindi noi arriviamo, tutta questa coda, un sacco di gente, vediamo sfilare a Fef, che al tempo era sua moglie forse, no, musa, sì, musa, sì, tutta questa gente, vediamo sfilare, niente, dopo un quarto d'ora ci siamo sentite male e abbiamo chiamato mio padre per venirci a prendere perché ci stavamo svenendo. Storia, ma che storia è? E stavamo svenendo, faceva troppo caldo, noi c'eravamo vestiti di nero. Ok, ma scusate, ma sulla base del cosa siete voluti andare al suo funerale? Non c'era Instagram. Per no, la situa, per la situa, volevate fare balotta? Volevate dire io c'ero? Volevamo dire io c'ero. Ok, okay. Forse c'era, volevi mimare la cotta che è andata esatto, al funerale. Bello, è una bellissima storia. Ma l'ultima, invece, l'ultima notizia della settimana che leggo senza sapere nulla, per cui io vi vado a leggere, dopodiché chi ne sa aggiungerà qualcosa, è una papera è andata a trovare un suo amico in una clinica veterinaria. Ma sembra tipo una di quelle barzellette, tipo un mio amico è entrato dentro il caffè e ha fatto splash. No, beh, mi fa sempre ridere. La storia l'ho messa io, okay, ed era un po' per stemperare i due temi pacco delle prime due notizie. Sì. Che oggi ho letto questo post Instagram. Perché non ti ridere. Aspettavi arrivasse il sindaco di Biella? Non, perché non mi aspettavo che arrivasse il sindaco di Biella. Non sapevi che avevamo questo terzo ospite, la verità, esatto, è quella. Okay. E la notizia è praticamente che c'erano due papere, ok? Due papere. Okay. E una papera si è fatta dice male. Dice l'altra zampa. Papera. No, si è fatta male una zampa e l'hanno portata. Ma c'erano dove? Erano in un laghetto. Ma dove? In un laghetto in America. Ma è una barzelletta o una storia vera? No, una storia vera. Ma quindi l'amico non è un amico umano, è un amico papera. Due papere. Okay. Di Mac DeMarco. Vicine alla città di Mac DeMarco. Okay. E una papera si fa male, quindi le persone la trovano. Ma come si fa a far male? Non lo so, e l'hanno trovata che si era già fatta male, non è che gli ha detto mi sono fatto male così. Allora la portano in un ospedale. Ma chi? Delle persone la trovano e la portano in un ospedale per animali. C'è una clinica veterinaria. Una clinica veterinaria, okay. E questa, l'altra papera che era lì con loro, li ha seguiti per tutto oh il viaggio. Mio Dio, che e c'è sta foto bellissima della papera che è fuori dalla clinica veterinaria a guardare dentro. Possiamo trovarla subito e metterla su Instagram? Adesso la devo cercare, però okay, assolutamente. È bello. Posso dire che però io non ero piuttosto mimo. Beh, la notizia della settimana è che anche le papere hanno un cuore. Questo è per creare quella situazione sexy. Ehi tu, ma lo sai che oggi una papera è andata a trovare un suo amico papera? Che io pensavo un suo amico uomo, alla clinica veterinaria. E lui ti dirà, oh mio Dio Marzi, ma hai degli occhi stupendi. E a quel punto partirà, e qui ci voleva il DJ, il tempo delle mele. Esatto. A parte che a me, se uno mi dice che ho degli occhi stupendi, entra nei miei però flow. È vero, Marzia. È già successo però, Marzia. Grazie. Ma no, perché successo. Non potete vederla. Perché non mi potete vedere. Però ha degli occhi che fanno... Comunque, ehi, scusate, non volevo interrompere con questo flirt. Però secondo me invece è una bellissima storia da raccontare a qualcuno per un crash. Gli dici tipo... Ah, sì, ti seguirei come la papera. Ma che cazzo è? Vabbè, ragazzi, niente, con questa paperata. Fateci sapere se la utilizzerete in quelle forme. Adesso vi mettiamo la foto su Instagram, così potete tutti, come dire, farvi stringere il cuore guardando questa papera. Posso dire che anche ho una cosa da dire. Paperissima, a me faceva veramente ridere. Cagare. Ah no, a me stracagare. A me faceva troppo ridere, soprattutto le fail in matrimoni. A me quelli che cadevano piuttosto. Sì, fail in matrimoni, però tipo il suocero che cade. Ah, vabbè, ci sta. Invece la mia cosa era che quando vedo gli animali carini, mi piacciono talmente tanto che vorrei ucciderli. Ah, questo qua è un sentimento che anch'io. E un sacco di altra gente, sono sicuro. Capito? Cioè, che tipo dici, oh mio Dio, gli spezzerei il collo. Tipo, zampe degli animali piccoli nel frullatore. Oh mamma mia, esatto. Detto questo scusate, mi devo vomitare. Scusate EMPA e tutto il WWF e tutti quanti. Ha forse salutiamo. Trovato l'angolo del microfono che funziona bene. È vero, però è molto dovreste vederlo perché ora, mi è piegato. Ora mi sento. Guarda te, alla fine della puntata. Bene, va bene questo, ragazzi. Vi salutiamo, vi ringraziamo per il tempo che avete trascorso con noi. Grazie. Adesso andiamo a mangiare finalmente. Siete sempre speciali, siete sempre importanti. Siete la nostra crush. Fateci sapere se fate dei panettoni, delle uova, dei vasi. Se decidete di imitare qualcuno che vi piace. Insomma, qualsiasi cosa vi sia arrivata di questa puntata. Probabilmente niente. Niente, come al solito. Grazie. Ma noi vi vogliamo così bene. Ci baci. Vediamo tra due settimane. Ciao. Ciao, ciao. Probably wouldn't have seen me.